soffiavo uno scirocco teso come i miei nervi, gremita la piazzetta appena fuori la stazione termine, minuti eterni passavano pesanti nell'attesa che una tipa mi chiamasse. Io attorniato da sinistra e facci, aspetto un mess ma il cellulare taci, la situazione non mi piace, perversi non mi danno pace, passa un vecchio e propone sesso, sbava il mio orecchio, mi sta addosso, così lo guardo con disprezzo, minaccio, lo insulto e con faccia tosta se ne va sconvolto. Ma questo è solo l'inizio, ascolta senza reticenza, una vera storia di sana incoscienza, sì. Sigaretto in bocca e sguardo arrogante, per sentirmi al sicuro ma le mani sul contante. Non sono del posto e lo si sente, la palpitazione rapida, se guardo bene attorno chi ci abita. Mentre il più onesto colpirebbe sua madre dalla schiena, quello più candido si è appena fatto un fuorivena. Li vedo prendersi a cuore questa mia pena, annusando il mio sgomento come un cane la sua cena. Sodomiti magrebini, sognavano con me storie d'amore clandestine, Roma in stile Pasolini, dediti ai più sporchi vizi. Decido di spostarmi verso luoghi di intrattenimento più quattristi. Viro sicuro verso viale del Castro Pretorio, per un po' di shopping ma mortorio. Sì, niente in giro, locali chiusi e caldo ancora atroce. Non trovare da fare a Roma mi sembra una croce però. Ed ecco il punto, quella voce mi chiama dentro una cabina. Pelle mulatta, faccio carina, mi dice guapo, mi chiamo Cristina. Sì, vengo di Guadalupe, faccio la ballerina. Se tu non hai da fare, facciamo un giro, ti offro di bere. Io aspettavo un'amica, ma lei non può venire, quindi accetto senza indugi. Lei mi porta in mezzo coi suoi mille sotterfugi. Prima lo shopping, poi i posti grigi, conosce ladri tossici, dopo finocchi in crisi. Le chiedo se è possibile acquistare coca in dosi, lei fa, conosco il posto per quei casi. Mi porta dietro la stazione, nere arabi fa massa, mani spudorate sul suo culo mentre passa. Lei sorride, li saluta, cercando di fottermi mi aiuta, così le do fiducia. Indisegue fino a casa la tipa in un palazzo ambiguo, ma con teatro attivo, sembra buona cosa lei. Mi lascia accomodare su un divano rosa e poi mi slaccia i pantaloni con i denti come non mi han fatto mai. Lei la fa facile ed io che sorrido sospirando docile. E abbiamo appena incominciato a divertirci quando si apre la porta, entra due trans che te li raccomando. Cristina fa un sorriso, quelle si storpia al viso, mi alzo di scatto in difensiva, lei fa l'aggressiva. Poi comprendo d'essere preda di un vizioso piano, mi divincolo nervoso verso il primo piano. Ho rischiato duro il culo perché era romano, qual era il suo difetto? Cristina era cristiana. Nice,